Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera. Quest'oggi parliamo di tecnologia. Vogliamo dare inizio di trasmissione, in particolare un saluto a chi ci ascolta dal carcere o privato della propria libertà personale. Oggi parleremo di governance della rete. Abbiamo anche un ospite con noi, c'è il professor Poderoso. Buonasera, professore, grazie per aver accettato il nostro invito. È un grande piacere da parte mia perché i temi della libertà, soprattutto sulla rete, sono temi centrali per la nostra vita. Soprattutto in questo momento in cui tanti processi sembrano accelerati dal coronavirus, insomma, da quello che stiamo vivendo in queste tragiche settimane, tutti i vari processi di automazione della produzione e di messa proprio in rete delle nostre vite attraverso vari strumenti informatici sembra improvvisamente accelerato. Era un processo già abbondantemente in atto di cui abbiamo parlato tante volte, però adesso sembra che ci sia stato, no, un'accelerazione importante. Ecco, quindi è ancora più rilevante parlare in questo momento. Certo, l'io digitale, noi ormai abbiamo un'altra persona, la nostra replica, il nostro specchio nella rete, con tutta una serie di problemi di riservatezza, libertà personale, conoscibilità dei dati, è un tema veramente centrale. Io normalmente queste cose le insegno all'Università della Strada, però lo cerco di fare nel nome della libertà, perché tutelare la nostra libertà in rete è ancora più difficile rispetto alla libertà fisica, alle volte. Anche perché è un concetto più difficile da considerare, da acquisire. In fondo, in generale, lo è quello della libertà, ma quello della libertà in rete è ancora di più. Bisogna fare un passo in avanti, anche esistenziale, personale, per comprendere le implicazioni, no, della nuova vita che sia in rete rispetto alla vita che sia fuori dalla rete. Quindi probabilmente c'è bisogno di studiare, di conoscere. E probabilmente siamo ancora abbastanza impreparati, per questi ragionamenti. Ci sono due problemi. Il primo problema è che la rete trasforma i nostri diritti tradizionali, cioè i nostri problemi, la manifestazione del pensiero, la riservatezza, la libertà personale, vengono incisi. Esempio classico, la diffamazione in rete, e quindi come un diritto tradizionale, quando viene esercitato in rete, diventa più difficile. E poi ci sono diritti completamente nuovi, come per esempio il diritto di accesso ad internet, il digital divide, cioè il divario digitale, il fatto che alcune persone non hanno accesso alla rete o non possono permettersi gli strumenti di accesso alla rete e quindi restano emarginati da tutto questo, e ancora il problema di chi regola la rete, che è forse il problema più affascinante. Sì, perché ci troviamo di fronte a qualcosa di inedito. Sembrerebbe che con l'avvento dei servizi in rete, dei nuovi soggetti si siano fatti quasi costituenti, no? Si siano costituiti come naturali gestori, andando anche a mettere in discussione quello che è il ruolo dello Stato. Quindi se tradizionalmente il nostro sistema capitalistico funziona con degli stati, sono 100, 170, 180, 200 stati, quelli che insomma regolano la vita all'interno dei territori, e nella rete anche il concetto stesso di territorio tramonta, e poi ci sono dei soggetti privati che sono giganteschi e sono in grande crescita e che quindi vogliono progressivamente acquisire un ruolo maggiore nelle decisioni, quindi c'è un ulteriore Il problema. problema è proprio questo, che ormai la rete non ha una base fisica come gli stati, perché gli stati sono governo, popolo e territorio, perché lo Stato ha una sovranità sul territorio. Il territorio di internet è virtuale e infinito e in internet ci sono soggetti che sono molto più importanti e potenti degli stati. Abbiamo i grandi fratelli o le grandi sorelle della rete, quindi Google, Amazon, Microsoft, che da un lato sono più grandi e più forti degli stati, perché hanno una sovranità mondiale, globale, e quindi non hanno un territorio di riferimento. Classico problema: se Google, Apple, Amazon pagano le tasse, dove le pagano e dove risiedono. Secondo problema: chi può porre delle regole per limitare i grandi social e i grandi nodi della rete? Esempio classico: Facebook, no? sull'odio in rete, quindi sulle offese in rete, alcuni stati hanno fatto delle leggi per trasformare il diritto all'ingiuria e alla diffamazione, perché classicamente se io vengo offeso da qualcuno devo fare ricorso in tribunale. Ovviamente i tempi e la diffusività della rete non consentono il ricorso in tribunale e quindi se trovo in rete continuamente il professor Poderoso è stupido e il professor Poderoso è cattivo, io ho l'interesse prima ancora che denunciare chi lo ha scritto, alle volte anche difficilmente reperibile, ho interesse a cancellarlo. E per cancellarlo, quindi, la legge francese e la legge tedesca ci dicono una cosa interessante. Io devo segnalarlo al provider ed è obbligo del provider rimuoverlo. Quindi, se il provider non lo rimuove, viene multato. Cosa significa? Che lo Stato non può più usare la sua forza per far rimuovere il mio contributo, il post su Facebook, ma deve usare la forza dello stesso provider. Questo è molto interessante. Come il provider diventa strumento della forza dello Stato. Perché lo Stato è debole rispetto alla rete. E i mezzi tecnici per operare non sono nelle mani dello Stato, ma nelle mani del provider. Certo, perché diventano mezzi privati che spesso non si sa neanche dove risiedono e chi li può regolare. Una delle cose più interessanti è come negli ultimi mesi Facebook abbia messo in campo la sua moneta e il suo tribunale, che sono due delle caratteristiche più classiche di uno Stato, perché lo Stato batte moneta, lo Stato esercita giustizia. Quindi, cosa dovrebbe servire il tribunale di Facebook? Dovrebbe servire per tutti i problemi che ci sono all'interno della rete. Se il mio profilo viene chiuso, se ho posto un contenuto non sgradito, se un altro utente segnala che io ho pubblicato contenuti sgraditi, faccio ricorso al tribunale di Milano, al tribunale di Palermo, ma o peggio ancora al tribunale di Dublino o di Seattle, ma certo che no, faccio ricorso al tribunale di Di Facebook. Facebook. Facebook sta creando questa sua struttura al suo interno per garantire cosa? La mia cittadinanza digitale all'interno di quella comunità. D'altra parte sappiamo che Facebook solo in Italia è uno stato da 30 milioni di abitanti e nel mondo è uno stato di miliardi di abitanti digitali, di miliardi di profili. Più di 2 miliardi in Si dice che supera crescita. i 2 miliardi in crescita, quindi è lo stato più grande del mondo, Facebook, e ha bisogno delle sue regole, che però sono regole poste da un privato, perché Facebook è un sito privato di qualcuno. Certo, ovviamente nella compagine sociale ci sono tanti attori diversi, tanti fondi, non c'è però la presenza dello Stato. E qualcuno dice, beh, questo può anche essere una fortuna perché ci sono invece situazioni in cui c'è una convergenza tra potere statale e potere diciamo, tecnologico di erogazione di servizi e viene subito in mente la Cina quando si pensa a questo, no? Dove le due cose vanno a coincidere. E lì, paradossale, cioè, diciamo, lì c'è un problema di restrizione di libertà personale, un problema di privacy ancora più grande, ancora più serio. Quindi in realtà non proponiamo certamente che sia lo Stato a regolarlo, però ci poniamo comunque il problema di soggetti privati che improvvisamente diventano organismi che hanno appunto addirittura ecco, tribunali, Più addirittura più potenti degli stati, potenti degli perché noi stati. tradizionalmente abbiamo distinto fra interesse pubblico e interesse privato. Il privato fa il proprio interesse personale, economico, può essere anche filantropico per fare del bene, ma comunque è il privato e lo faccio per me stesso. Io sul mio sito ci metto quello che mi pare a me. Io sono un appassionato di fiori, farò un sito sui fiori e lo faccio per guadagnare o per promuovere i fiori. L'interesse pubblico, invece, nella concezione dello Stato moderno dovrebbe essere il pluralismo di tutti gli interessi dei cittadini e quindi lo Stato, ente a fini generali, dovrebbe perseguire innanzitutto la garanzia dei diritti in maniera che sia la scatola dove, dentro la quale ciascuno sia libero e sia allo stesso tempo uno Stato a matrice sociale, cioè mette a disposizione di tutti i cittadini anche i più deboli e i meno abbienti, le possibilità di vivere dentro la collettività. Ora, ovviamente, questo è l'interesse pubblico, che sarebbe interesse di tutti perché di nessuno, ma ovviamente un sito è di qualcuno e quindi comunque alla fine Facebook, Apple, Google fanno i propri interessi, quantomeno commerciali. Ci sentiamo più garantiti? Non possiamo sentirci più garantiti anche perché noi non abbiamo mai eletto queste persone. Adesso non che le elezioni possano garantire chissà quale diciamo, forza contrattuale nelle, no? Nelle relazioni fra cittadini. Però comunque almeno quello era una modalità criticabile quanto si vuole, ma pur sempre una modalità con delle regole chiare a cui affidarsi, perché in questo caso non c'è neanche questo, ci sono dei soggetti che sono diventati padroni e nessuno ha capito perché. Beh, perché innanzitutto sono diventati padroni dei nostri dati, perché quando noi ci iscriviamo a un qualunque social, a un qualunque sito, cediamo la cosa più importante che abbiamo, i nostri dati, e li cediamo spesso in maniera inconsapevole e gratuita. E ovviamente chi ha 2 miliardi di profili di persone, e poi sappiamo bene che ormai gran parte dei profili sono profili veritieri e che comunque rispecchiano le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre ricerche, i nostri acquisti, ha ovviamente un potere economico enorme, perché può profilare queste persone e poi rivendere questi dati o comunque utilizzarli per orientarli. Tutti noi ci stupiamo quando sul telefonino ci compaiono segnalazioni delle cose che a noi piacciono di più. Perché come fa il telefonino a saperle? Lo sa perché noi siamo profilati e sa se noi mangiamo cioccolato, piuttosto salame, o ci piacciono le scarpe, o piuttosto le radio. Ecco allora che i giganti della rete sono più forti degli stati. Lo Stato può regolare un gigante della rete? Lo Stato può decidere come ci si comporta dentro Facebook? No. O dentro Twitter? No, perché sono luoghi privati. Vediamo anche le diverse scelte dei diversi grandi siti, ad esempio sull'uso della pornografia. È una libera scelta del singolo sito che la regola come vuole. Ogni sito, essendo privato, sceglie quali contenuti può ammettere e quali no, ma è privato. Al massimo gli stati finora si sono limitati a fare delle mega multe in occasione di infrazione di regole di competitività o Tributarie tributarie. soprattutto, gli stati hanno un interesse tributario soprattutto a far pagare le tasse e ovviamente questi giganti della rete sono sfuggenti perché hanno le loro sedi e le loro reti sparse per il mondo, anche perché non si sa neppure dove siano. Quindi questo è il primo grande problema, cioè chi regola i giganti della rete? E noi abbiamo la consapevolezza che uno Stato non può regolare qualcosa di più grande di lui. D'altra parte ormai anche come fatturato, il fatturato di uno di questi giganti della rete corrisponde a uno Stato che va a sedere fra il G20 e il G30 del mondo. Quindi abbiamo anche un potere economico, oltre che un potere di influenza, molto maggiore di quelli che possono essere, non lo so, la Grecia, il Portogallo o l'Estonia a livello di mondo. Ormai Facebook o Apple o Google hanno quasi una cittadinanza mondiale maggiore di quella degli stati, come influenza e come potere economico. Ebbene, allora fermiamoci qui per una prima pausa musicale, ci risentiamo fra 2 minuti, siamo su entropia massima. Questi sono gli Intillimani con La Partida. Thank you. Allora eccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando di governance della rete, abbiamo visto nel primo blocco i temi che riguardano appunto questi soggetti privati che gareggiano con gli stati e addirittura posseggono dei PIL tra i primi 20 e 30, stavamo dicendo, però c'è anche un altro tema importante, cioè che talvolta gli stati utilizzano anche l'IT e gli algoritmi per diciamo, esercitare quelli che sono i propri compiti, il proprio potere. Ecco, cosa succede quindi quando questa cosa avviene? Cioè, quando gli stati devono chiedere a qualcuno di utilizzare infrastrutture, di utilizzare algoritmi per esercitare il proprio governo. Soprattutto per esercitare le procedure, i procedimenti burocratici, giudiziari, elettorali, cioè il voto elettronico, la democrazia elettronica, ma anche per esempio la giustizia elettronica o il procedimento amministrativo. In che senso? Facciamo un esempio perché abbiamo ormai dei casi anche significativi di mescolanza fra giustizia umana e giustizia digitale. Soprattutto molti stati degli Stati Uniti d'America hanno introdotto l'algoritmo giudiziario. Cioè il giudice viene affiancato da un algoritmo che ovviamente conoscerà molto più rapidamente e molto più facilmente tutte le sentenze, tutte le leggi di quello stato e quindi in maniera anonima e impersonale dovrebbe fornire il risultato, cioè far capire se in base ai precedenti e in base alle leggi quel cittadino sarà colpevole, dovrà dare il risarcimento del danno o veramente ha commesso quel reato. Ma noi preferiamo essere giudicati da un algoritmo o da un uomo? Nel mondo del diritto, degli avvocati, c'è questa storiella, no? Si dice che normalmente i colpevoli preferiscono essere giudicati dagli uomini e gli innocenti dalle donne. Perché si dice che le donne, i magistrati donne, si studiano meglio le carte e quindi vanno veramente a vederle e capiscono come stanno le cose. Gli uomini invece vanno a simpatia e antipatia e quindi essendo a simpatia e antipatia, se io sono innocente, colpevole, posso sperare di cavarmela con un uomo. Ma al di là di questo scherzo, c'è stato un caso molto interessante 2 anni fa in Wisconsin, il caso Loomis, Eric Loomis. Eric Loomis, per un reato abbastanza banale, venne condannato a un aggravante di 6 anni e mezzo di carcere da un algoritmo. E il suo avvocato mise in dubbio che questo algoritmo potesse, l'algoritmo Compass, che era un algoritmo dello Stato, fatto dallo Stato, fosse discriminatorio, perché il suo assistito era un disabile di colore. E quindi chiese l'accesso a come era scritto, a come fosse stato scritto l'algoritmo, per capire se l'algoritmo era giusto o ingiusto. E cosa faceva questo algoritmo? In che senso lo ha giudicato? Lo ha giudicato nel senso che il caso è stato introdotto in un computer e il computer, una forma di intelligenza artificiale, ha deciso lui la sanzione basandosi su tutti i precedenti della persona, ma soprattutto i precedenti giudiziari dello Stato e le leggi dello Stato. Ovviamente Un'elaborazione automatica, quindi, di quello che avrebbe dovuto fare un giudice, invece è stato affidato ad un calcolo. esatto, ha un calcolo algoritmico e d'altra parte un processo del genere algoritmico dura 2 ore e non 2 anni e quindi diciamo c'è anche un vantaggio per la giustizia perché questo lo sappiamo sempre, la giustizia rapida è sempre più giusta della giustizia lenta. Ma quale fu il problema? Che uscì fuori il dubbio che questo algoritmo fosse discriminatorio e la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato l'accesso al sorgente dell'algoritmo, ma nel frattempo è partita una grande campagna di stampa che è riuscita negli Stati Uniti a tirar fuori cosa c'era dentro l'algoritmo. Ed è uscita fuori una cosa incredibile. L'algoritmo non era stato fallato o taroccato dal suo produttore, perché il produttore semplicemente aveva inserito tutte le sentenze e tutte le leggi di quello Stato negli ultimi 200 anni, ma tuttavia, essendo stato il Wisconsin uno stato con un diritto razziale fino a 50 anni fa, è chiaro che le leggi e i precedenti giudiziari degli ultimi 200 anni condannavano più volentieri i neri. E quindi Loomis era stato condannato di più perché il computer aveva visto che era di colore. Ovviamente questo è un caso impressionante perché ci fa capire come l'algoritmo, che dovrebbe essere più giusto, dipende molto da come è stato impostato. perché anche impostarlo nella maniera più neutra e più piatta possibile, cioè solo con tutte le sentenze e tutte le leggi di quello Stato, può essere in sé discriminatorio, perché ormai quello Stato ha cambiato il suo orientamento, ad esempio sulla razza. E quindi questo algoritmo ha centrato il suo obiettivo di essere il più simile possibile all'essere umano, il più simile possibile a un giudice del Wisconsin, e pertanto si è comportato come si sarebbe comportato un giudice umano. Quindi da un punto un di vista... Un vecchio giudice conservatore, retrivo, che odia le persone di colore, ma certo che no, perché noi invece da una macchina ci aspetteremmo quello che deve essere il giudice secondo la Rivoluzione francese, il giudice la bouche de la loi, la bocca della legge, imparziale, automatico, che applica le regole in maniera eguale per tutti. Quello è il punto, e l'algoritmo dovrebbe riuscire a fare il processo più veloce. Sappiamo uno dei grandi problemi in Italia, noi abbiamo 5 milioni di processi pendenti, 5 milioni! Accidenti. Con un algoritmo probabilmente in un mese li esauriti tutti, no? Certo, però, ecco. Ma è più giusto o più ingiusto? E poi, appunto, è preferibile essere giudicati da un uomo o da un algoritmo? Diventa una domanda quasi filosofica. Diventa quasi una domanda che dovremmo fare ad Asimov, no? Alle sue leggi della robotica. Però torniamo al punto. Come si regola la robotica? Questo è un tema affascinante che arriva sempre di più e che si sta sviluppando anche in altri campi, per esempio il diritto sanitario, no? Perché anche lì abbiamo, cioè, questi grandi prodotti che stanno cercando di schedare tutte le cartelle cliniche e di mettere in rete tutti i medici del mondo. In questo modo, quando io verrò visitato e la macchina aiuterà a fare la diagnosi, e soprattutto la mia frattura al gomito verrà vista in Nuova Zelanda da quel ortopedico specializzato in quel tipo di frattura, e quindi sicuramente avrò un vantaggio. Però in questo modo che cosa avremo? Avremo una grande banca dati di tutte le malattie del mondo, e soprattutto che conosce un dato sensibilissimo di ciascuno di noi, la propria cartella clinica. Ovviamente una banca dati del genere, che da un lato per la salute sembra il toccasana, perché tu riesci a farti curare in maniera monitorata dal miglior medico del mondo in quel momento, se finisce nelle mani di una banca o di un'assicurazione, diventa la controprova ideale per capire a chi dare il mutuo o a chi fare l'assicurazione, sapendo come sta in salute. Anche se finisse nelle mani di un datore di lavoro, che potrebbe decidere di non dare un lavoro a una persona che da un punto di vista di salute potrebbe non essere promettente per la produttività. Ma certo, perché so che quella persona è diabetica o comunque cagionevole, preferisco non assumerlo. Ecco allora che l'uso del dato può diventare ancora più discriminatorio e pericoloso. È per questo che è molto importante sapere di chi sono i dati e come vengono usati. In questo momento sappiamo solo che sono nelle mani di questi giganti, nella stragrande maggioranza, no? come quantità sicuramente sono nelle loro mani, e pochissimi sono quelli, diciamo, nelle mani dello Stato, sebbene come noto ultimamente si sia parlato appunto di questa app Immuni, che in qualche modo l'oggetto stesso dell'app era quello di monitorare, di controllare, no? Quindi un oggetto dichiarato, diversamente da quello che avviene con le app invece, che hanno delle altre finalità e poi magari tornano utili a chi le distribuisce. Per sia ben chiaro, anche Google, Apple ci monitorano continuamente, però almeno il loro fine è un altro. L'app Immuni dovrebbe servire proprio a monitorare spostamenti e incontri. E quindi c'è stato un dibattito importante, no? che ultimamente, veramente negli ultimi giorni, sembra un pochino scemato, però per alcune settimane, insomma, ci si è interrogati. Sì, allora, era sembrata, diciamo, il toccasana per quella che stiamo iniziando a vivere, cioè la fase 2. Che cosa dovrebbe essere l'app Immuni? Che peraltro il presidente Conte ha richiamato nell'ultima conferenza stampa, quella di sabato, quindi dovrebbe essere una delle cose che poi si fa nelle prossime settimane. Allora, che cosa è importante in questa fase in cui inizia la circolazione? Venire a sapere se ciascuno di noi è entrato in contatto con una persona contagiata. E quindi, se abbiamo un'app di tracciamento sui nostri dispositivi, noi possiamo essere informati se il signor Antonio, che abbiamo incontrato giovedì, risulterà poi fra una settimana positivo. E quindi è un'app molto utile, perché quando si scoprirà che il signor Antonio era positivo e contagioso, saranno avvisate tutte le persone che ha incontrato, e in questo modo si potrà prevenire e bloccare il contagio. Ovviamente serve un'app digitale per fare tutto ciò. Serve un'app che conserva il tracciamento di tutti gli spostamenti e di tutti gli incontri delle ultime 2-3 settimane. E qui ovviamente il problema diventa significativo per il diritto. Perché innanzitutto questi dati a chi finiscono? Sono dati ovviamente preziosissimi, per fare una battuta, sono dati che anche se finissero nelle mani di mia moglie potrebbero essere pericolosi, no? Che viene a sapere tutte le persone che ho incontrato. Certo. Ma non è solo quello, perché sono dati ancora più importanti, perché si viene a sapere dove sono andato, chi ho incontrato, con chi sono entrato in contatto e poi soprattutto in questa app ciascuno di noi dovrebbe registrare il diario clinico, cioè ogni giorno dovrebbe scrivere nell'app la temperatura, i sintomi, in maniera da dare una grande mappatura dello stato di salute degli italiani. E quando saranno pronti tamponi e test sierologici, inserirli a maggior ragione in questa app per dare un quadro di come stanno le persone e chi ho incontrato. Ovviamente i problemi per il diritto sono enormi, giusto? Sì, qui è una schedatura sanitaria totale, no? della popolazione. Sanitaria e degli spostamenti. E degli spostamenti, tutte e due le cose insieme. È vero che l'app è facoltativa, ma... Allora... Ancora sappiamo poco di questa app, però l'app dovrebbe essere facoltativa, anche se alcuni dicono che un'app del genere funziona soltanto se la scarica almeno il 60% della popolazione, altrimenti ovviamente crea dei buchi. I problemi quali sono? Innanzitutto il divario digitale. Perché? Perché serve un telefonino di modalità aggiornata e attuale, e quindi serve un telefonino, un apparecchio di quelli moderni. In Italia su 60 milioni di abitanti soltanto 40 milioni hanno un apparecchio di questo genere, quindi i primi 20 milioni di persone sono al di fuori. E poi c'è la capacità della rete, perché sappiamo che la rete non funziona in maniera uguale in tutto il territorio nazionale, e quindi c'è almeno un altro 20% della popolazione che non è in zone coperte da un buon segnale di rete, per cui noi abbiamo chi non ha il telefonino o per incapacità, gli anziani per esempio, o perché non si può permettere un telefonino aggiornato, o perché vive in zone non coperte, che subisce il divario digitale, la discriminazione digitale, perché non può accedere a questo tipo di app. Possiamo trattarli in maniera diversa e ritenere che non possano circolare? Assolutamente no. Sarebbe una violazione gravissima dei principi di tutte le carte internazionali e della Costituzione. E questo è un primo problema. Poi supponiamo che alcune persone decidano, nonostante non sottoposti a divario digitale, di non installare la app per propri motivi, e questo sarebbe comunque consentito. Se è volontaria la app, non possiamo certo obbligare qualcuno, perché altrimenti faremmo i cittadini di serie A e di serie B. Quelli che hanno l'app hanno il disco verde e quelli che non hanno l'app hanno il disco rosso. Proprio veramente saremmo nella società di Matrix, di un film di fantascienza, no? Potrebbe anche accadere che chi decide di non installarla ha degli svantaggi. Inizialmente questi svantaggi potrebbero essere minimi e poi potrebbero essere sempre maggiori. Ma in questo modo è fatta la società di serie A e di serie B. Esatto. È veramente gravissimo, perché sarebbe l'app più discriminatoria possibile, perché a quel punto sarebbe come chi è classifica le persone in base alla capacità economica di comprarsi un telefonino, di abitare in un posto dove prende e di avere un dato sanitario vero o falso, buono o cattivo, nel telefonino. Diventa veramente pericolosissima in questo modo l'app. Forse per tutti questi motivi è un po' scemato il dibattito, o comunque sembra non è anche chiaro. Sì, non è chiaro. 2 settimane fa sembrava la cosa più pronta del mondo, ora non è chiaro, anche perché poi con questa curva pandemica che va scendendo, epidemiologica che va scendendo, sembra che sia meno necessaria e meno attuale. Però è un tema che è stato anche ripreso. E poi c'è un altro grande problema: questi dati dove finiscono? Chi li conserva? Che cosa se ne fa? Ebbene, allora su questo ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa musicale, ci troviamo in voce fra pochi minuti. Siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. ritorniamo in voce, siamo a Entropia Massima, stiamo parlando di governance della rete, ci siamo lasciati poco prima della pausa musicale con una domanda: di chi sono questi dati? Bisogna capire di chi è questa app Immuni, nel senso che è stata fatta una gara informale, rapida al Ministero, e questa gara l'ha vinta, è stata assegnata gratuitamente a questa software house milanese, Immun Bendings, che però bisogna capire se ha la capacità tecnica e la forza di collocare questi dati, anche perché immaginiamo la tracciatura continua di spostamenti e dello stato sanitario di tutti gli italiani comporta anche una capacità di rete notevolissima. Mancano ancora poi le ultime linee guida per capire come funzionerà l'app, però ovviamente la proprietà di questi dati è uno dei anzi, in diritto diremmo il possesso, perché i dati restano dei singoli, però il fatto di detenerli, di possederli in questo momento per 3 settimane diventa un problema centrale, perché questo è un grave problema per la privacy e la riservatezza dei cittadini. Sono stati posti dei limiti temporali quindi alla conservazione dei dati? Allora, non ci sono ancora dati chiari su come funzionerà l'app, però sicuramente è un'app che deve essere a tempo, nel senso che deve conservare le cose al massimo per 3 settimane, un mese, per avere una tracciatura utile al fine di prevenire il contagio se si scopre che io nelle ultime 2 o 3 settimane ho incontrato un contagiato. Conservarli di più non ha senso, diventerebbe la schedatura dei cittadini. E poi mi verrebbe da dire anche che, data la natura così delicata dell'oggetto di questa app, cioè i dati così penetranti nella vita delle persone, darli in gestione a un soggetto privato di fatto significherebbe un po' replicare quello che già sta succedendo con i giganti della rete, no? Quindi del resto anche darli allo Stato può porre un po' così delle perplessità. Cioè, il dibattito in realtà è un dibattito molto importante, no? che dobbiamo seguire. Comunque questa operazione è stata da più parti attaccata e probabilmente faticherà ad andare in porto. Io ho un dubbio, io non sono un tecnico di queste materie perché mi interesso di diritto e di giurisprudenza, però io credo che oggi Google, Apple hanno già la capacità tecnica di tracciare gli spostamenti di ciascuno di noi. Quindi loro hanno già l'app Immuni nei nostri telefonini, perché i nostri telefonini, lo sappiamo, sono continuamente tracciati nei nostri spostamenti, quindi tutti sanno, i giganti di rete lo sanno. Dovrebbe aver senso fare un'altra app di tracciamento fatta dallo Stato, perché diciamo, in quella distinzione che facciamo prima fra interesse pubblico e interesse privato, i dati conservati dallo Stato dovrebbero avere per noi una maggior garanzia. Però lì entrano in gioco le caratteristiche della riservatezza, perché anche tutte le discipline e le leggi europee sulla riservatezza impongono che quando io cedo i miei dati a qualcuno deve esserci un consenso informato, consapevole, a chi li sto cedendo e per farne che cosa. E poi devo sempre avere diritto di accesso, diritto di rettifica e diritto di oblio. Cioè io devo sempre poter andare a vedere i miei dati dove sono, vedere cosa è stato registrato dei miei dati, poterli cambiare se ci fossero degli errori. Qualcuno potrebbe dire: è andato a trovare Totò Riina. E dico: no, scusi, cancelli, Totò Riina è morto da qualche anno, non ci sono mai andato, eh. E poi il diritto all'oblio, cancellarli i dati, perché se io voglio, essendo miei, perché restano sempre in mia proprietà, devo cancellarli. A questi requisiti si rispetta la riservatezza. Capiamo bene che sono requisiti delicati, ma è uno dei pochi modi per proteggere il cittadino. E questo uno Stato è tenuto a farlo, ma in teoria anche i big tech sarebbero tenuti a farlo, cioè i grandi, Google, Amazon. Quando noi scarichiamo una app di Amazon, Facebook, Google, noi dovremmo in tutte quelle pagine che scorriamo rapidamente dare dei consensi su questi punti. Ovviamente quando noi ci scarichiamo un'app siamo così vogliosi di iniziare quel giochino o entrare in quel social che neanche le guardiamo queste cose. Però se io scrivo a Google, Google dovrebbe darmi i miei dati e le mie cose, e ci sono delle procedure di garanzia su questo. Ovviamente è sempre lì, questi sono privati e quindi loro, lo sappiamo bene, anche tutti gli scandali o pseudo scandali successi sulle elezioni negli Stati Uniti, Cambridge Analytica. Analytica, cioè ovviamente essendo una rete commerciale, quella dei Big Tech, loro questi dati li gestiscono e li vendono, perché ovviamente fa parte del loro business. Noi sappiamo che noi utenti, diciamo, io gratuitamente mi iscrivo a Facebook, però ovviamente è vero che non pago nulla, però quello che io cedo a Facebook ha un valore economico enorme per Facebook. Sì, come dicevamo prima, che le loro economie ormai sono tra le prime al mondo. Sì, addirittura i futurologi, quando ipotizzano come sarà il mondo fra 50 anni, ora poi bisognerà capire con le pandemie, però si dice che fra 50 anni quasi più nessuno di noi farà i suoi lavori tradizionali, perché il commercio, il lavoro in ufficio saranno venuti meno, sostituiti da modelli automatizzati, modelli di algoritmi, e a quel punto i cittadini cosa faranno? Su questo c'è Harari che lo dice, i cittadini venderanno i propri like sulla rete, quello sarà il nostro nuovo lavoro, no? E quindi diventeremo delle cavie digitali con l'io digitale che fa guadagnare l'io fisico. Sono cose interessanti, eh? Sì, lui addirittura usa questa immagine piuttosto forte di mucche da latte, saremo delle mucche da latte, il nostro latte saranno i dati di cui le macchine avranno bisogno per funzionare, per regolare la vita, per decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, per tutelare la nostra salute, eccetera, tutte quelle che sono le attività, no, che costituiscono l'ossatura delle attività statali saranno svolte da macchine solo grazie ai dati, quindi l'unica nostra funzione sarà quella, no? Ricordiamo una cosa importante, l'etimologia della parola dato. Dato cosa significa? Che è stato ceduto, che è stato dato. Quindi ricordiamo sempre che ogni volta che io trasferisco un mio contenuto mettendo un like, postando, retweetando, ho ceduto un pezzo di me, perché io faccio capire che approvo quell'idea, mi piace quella cosa, sono stato in quel posto. Sono dati, sono stati trasferiti, e l'unica cosa che io posso fare è cercare di andare a rivedere come vengono gestiti, come vengono conservati e cosa ne viene fatto, ma non di più, perché ormai li ho dati. Sì, poi si potrebbe anche andare oltre e parlare anche di lavoro, no? Che appunto, insomma, già da un po' sono in atto questi meccanismi di automazione che con tutta probabilità porteranno a una rapidissima scomparsa di gran parte dei lavori. Si dice che verranno dimezzati nei prossimi 10-20 anni gli attuali posti di lavoro. Quindi si porrà anche un problema sociale importante, no? D'altra parte è impensabile che nella società di Amazon, del commercio elettronico, il piccolo negozietto possa avere ancora senso. Ecco, questo che dici mi ha fatto ripensare a una cosa interessante, una dichiarazione di una responsabile Amazon Italia che in piena emergenza Covid spingeva al commercio elettronico le piccole realtà, le piccole botteghe, i piccoli negozi, no? Che in teoria dovrebbero essere i loro competitor, no? E quindi dice: ma come, tu che vuoi monopolizzare il commercio nel mondo, cosa dai un consiglio a una piccola realtà locale di fare quello che fai te, cioè il commercio elettronico? Che senso ha questo, no? Sembrava senza... Beh, io un po' ci ho riflettuto e ho pensato, alla fine quella piccola bottega avrà bisogno comunque di Amazon, non del sito di commercio elettronico, ma dell'infrastruttura di Amazon Web Services, che vende servizi in cloud, come è noto. E quindi quando dovrà andare online con il suo negozio, in realtà i suoi dati non saranno tenuti in proprio, ma saranno comunque tenuti da qualcun altro. E quindi in qualche modo anche un tentativo, no, di andare a competere con questi giganti si infrange contro l'evidenza che sono loro che hanno la possibilità di andare online seriamente, sono loro che hanno la possibilità di immagazzinare i dati seriamente, sono loro che hanno la possibilità di elaborare questi dati e nessun altro. In fondo è come quando si è passati alla rivoluzione proprio industriale, cioè la creazione del motore a scoppio. Prima si andava a cavallo e poi c'è stato il motore, quindi veramente qui stiamo cambiando un'epoca in questo senso, e ne vedremo delle belle anche per il diritto. Sì, è comunque importante parlarne perché rischiamo di rimanere stritolati in questo meccanismo, di non comprenderlo profondamente e quindi di non riuscire neanche a protestare e neanche a farlo in tempo, no? Questo è un altro tema che, insomma, con queste puntate noi cerchiamo sempre di riportare, cioè la necessità di conoscere il più possibile il digitale e i processi che innesca e le ripercussioni di questi processi sulle nostre vite, anche per poter fare delle rivendicazioni, no? Una di queste, insomma, potrebbe ad esempio essere il reddito di esistenza, no? Nonostante esso possa essere coniugato in tanti modi, declinato in tanti modi diversi e destare comunque preoccupazione, no? Per tante cose, però è uno degli esiti, in fondo, se le persone non lavorano, si dovrà dare un modo per farle rimanere in vita. E il problema è che il reddito di esistenza forse non ce lo darà più lo Stato, ma ce lo daranno Google, Amazon, Apple. Esatto, e lì sarà compiuto completamente il trasferimento, diciamo, delle prerogative statali nelle mani di questi privati, no? Non sapevo che ci fosse un tribunale di Facebook, veramente mi ha molto colpito oggi quando me ne hai parlato. Sapevo della moneta, quella probabilmente è più nota. Penso stia anche già funzionando, cioè un uso online per acquistare beni basato su questa moneta. Certo, diventa una specie di baratto creato con sistemi che sono come gli stati. D'altra parte sappiamo che la moneta è stata una delle grandi evoluzioni commerciali dei popoli antichi, proprio nel senso di superare la semplicità del baratto creando una moneta, e per anni, per secoli, la moneta è stata contraddistinta dal valore intrinseco, cioè la moneta valeva quanto oro, quanto argento, quanto bronzo c'era in quel pezzo di metallo. Poi ovviamente ormai la moneta è diventata totalmente virtuale anche per gli stati. Sappiamo che un euro non ha il valore aureo dietro di sé, ma allora a maggior ragione per commerciare in maniera virtuale su una rete, chiunque può scegliere la sua moneta, basta che venga accettata ed usata, e questo serve anche per tenere totalmente fuori gli stati da determinate transazioni che non possono essere più tassate, non possono essere più tracciate. Non possono essere più quindi pagate con gli stati, per cui questa è veramente un'altra grande rivoluzione. Totale, poi la natura privata di questi soggetti è preoccupante, insomma. Un'altra cosa che ho pensato, siccome, come abbiamo detto prima, loro la App Immuni da mo' che ce l'hanno, no? Hanno la possibilità di fare tanto, per un problema come questo, un problema mondiale. Mi sarei aspettato, no, una qualche uscita in tal senso da questi soggetti, illuso, totalmente ingenuo, probabilmente lo stanno facendo, ma con le logiche, diciamo, mercantile di scambio, no? E quindi se lo posso fare, io lo faccio, ma me lo devi pagare. Quindi non c'è nessuna ottica sociale in un soggetto privato. Quindi questa è la cosa che diciamo ci dovrebbe preoccupare di più. Ecco. Non, e ripeto ancora una volta: non per difendere necessariamente il modello statale, ma per semplicemente constatare che il modello privato ha delle regole molto chiare ed esse non vanno nella direzione di uno stato sociale, ecco. Quindi, insomma, ecco. Il problema, gli algoritmi, la rete aggraveranno le differenziazioni sociali, non creeranno maggiore uguaglianza, non creeranno maggiori diritti, ma in questo senso si aprirà ancora più il divario sociale fra coloro che potranno accedere agli strumenti e soprattutto potranno accedere, penso ad esempio, alle nuove cure che saranno studiate con la sanità digitale, la mappatura del genoma, e coloro che non potranno accedere. E così via. Quindi il rischio del digitale non è solo di trasformare ciascuno di noi da cittadino di uno stato in suddito della rete, ma soprattutto di ampliare la forbice sociale. Per questo è un tema di cui almeno riflettere. Eh sì, assolutamente. Poi, insomma, per questa radio il tema delle disuguaglianze è ovviamente centrale, e quindi è questo quello di cui si deve parlare. Bene, finiamo qui quindi la puntata odierna di Entropia Massima. Ci vediamo lunedì prossimo e un saluto quindi a chi ci ha seguito e un appuntamento con il palinsesto di Radio Onda Rossa. Arrivederci a tutti e tutte. Con grande piacere anche dal vostro prof.